Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: ci occuperemo di Europa, ma non tanto per le polemiche all'interno dell'Europa, quanto per le stime e i dati diffusi oggi dalla Commissione Europea nelle previsioni economiche d'inverno, come si chiamano in gergo, e sottolinea, come già ricordavano i nostri GR24, che dopo un decennio è tornato il segno più, ossia la crescita economica in tutti i paesi dell'Unione Europea. Alcuni l'hanno avuto subito questo segno, già dal 2010 in poi, altri no. Complessivamente rivede le prospettive di crescita per l'area euro, in questo caso parliamo solo dell'area euro, all'1,6% quest'anno. Sono riviste al rialzo, di poco, però ad autunno la previsione era più 1,5%, adesso più 1,6%. In rialzo anche le prospettive sul 2018, dall'1,7% all'1,8%. Il segno più in tutti i paesi, ma avremo modo di parlarne, ovviamente è una media e non vuol dire che tutti i paesi si muovano allo stesso modo. Nel caso specifico l'Italia continua ad avere una crescita più bassa della media europea, e più 0,9% l'anno scorso, più 0,9% anche quest'anno, più 1,1% nel 2018. Crescita stabile ma modesta, questa è la definizione della Commissione Europea. Pesano debolezze strutturali del nostro paese e fa notare comunque la Commissione Europea che tutto questo avviene in un periodo di tassi bassi. Questo, a mio avviso, ma poi ne parleremo, è il vero tema, e cioè: se cresciamo dello 0,9, dell'1,1, con tutti i vantaggi possibili da parte di Mario Draghi, detta in maniera un po' brutale, cosa capiterà quando prima o poi, nel 2018, i tassi dovessero tornare ad aumentare e quindi non avremo più il beneficio sui conti pubblici dovuto a un costo del denaro e a un costo di indebitamento pari a zero, in alcuni casi anche negativo. Su questo, visto che i tassi si muovono in base all'inflazione, segnalo che l'inflazione nell'area euro è stimata all'1,7% quest'anno, quindi inizia a essere a un livello un po' più vicino, o abbastanza vicino, al 2% ritenuto ottimale dalla Banca Centrale Europea. L'Unione Europea, sempre sul nostro paese, cita i rischi derivanti dall'incertezza politica e del lento aggiustamento del settore bancario. Questi due elementi pongono dei rischi al ribasso sulla prospettiva di crescita dell'Italia. Buono invece il dato sugli investimenti, più 2,4% per quest'anno, usufruendo delle misure nella legge di bilancio, in primo luogo iperammortamenti e superammortamenti. Poi altre previsioni che riguardano l'intera area geografica, rischi eccezionali sia per la politica di Trump che per la Brexit. Le prospettive di crescita e inflazione sono soggette a grande incertezza, si tiene un po' di margine l'Unione Europea, la Commissione Europea per l'anno in corso. Oggi il commissario europeo Pierre Moscovici, rispondendo a una domanda sull'Italia, ha poi aggiunto: il rischio politico è il populismo anti-euro, è assurdo e pericoloso, presente in Francia prima ancora che in Italia. L'uscita dell'euro, Moscovici è francese, sarebbe una catastrofe per la Francia, e ha detto poi che sull'Italia, che verso l'Italia non c'è alcun ultimatum quanto a correzione dei conti chiesta da Bruxelles sul deficit, c'è un dialogo costante e costruttivo con Padoan. Ci aspettiamo comunque, detto Moscovici, misure per lo 0,2% come discusso con Padoan. Di questo parleremo anche della Corte dei Conti, che dice: attenzione, continua a esserci in Italia, la Corte dei Conti italiana ovviamente, un rischio di dispersione dei fondi dell'Unione Europea. Allora, un conto è lamentarsi, come facciamo noi, di una mancanza di progetti di investimento europei che facciano ripartire l'area, però poi i soldi, non tantissimi, che ci sono, vanno usati. Allora, l'utilizzo dei fondi strutturali ha registrato una percentuale di questi ultimi di poco superiore all'80%, cioè c'è un uso che non arriva nemmeno lontanamente al 100%, si arriva all'80%. Ancora poi la Corte dei Conti si scaglia contro le frodi verso l'Unione Europea, e dice che contro la corruzione serve una sinergia tra l'antitrust e l'ANAC, ma poi vi arriveremo. Di questo parleremo anche della riforma della pubblica amministrazione, perché c'è l'incontro governo sindacati sul nuovo decreto pubblico per l'impiego, e quindi anche le regole sui premi di produttività per i dipendenti pubblici. È una partita che vale complessivamente 8 miliardi di euro, ossia 2.300 euro in media per ogni busta paga, come media, attenzione. La spesa, faccio notare che per i 3.100.000 dipendenti della pubblica amministrazione attualmente vale circa 107 miliardi di euro, 84 miliardi di stipendi e 15 miliardi di indennità. Poco meno di 8 miliardi invece le risorse legate alla produttività. Faccio anche notare che proprio per il rinnovo del contratto del pubblico impiego è importante l'attivazione della legge Madia. I contratti nella pubblica amministrazione sono bloccati da 7 anni. Si è stimato che è vero che c'è stata poca inflazione, però qualcosa c'è stato in questi 7 anni. Questo equivale a una perdita del potere d'acquisto della pubblica amministrazione di circa il 6% in questi 7 anni. È come se dovessi uno stipendio che in termini reali vale il 6% in meno. Poi la borsa, più 1,20% Milano, più 1,35% Parigi, più 1% Francoforte, più sostanzialmente Londra fa più 0,40% in questo momento, Dow Jones più 0,50%. Faccio notare però che a Wall Street lo Standard & Poor's 500 vale a questo punto 20.000 come capitalizzazione dollari, 20.000 miliardi di dollari. È la prima volta nella storia, sono volati vari titoli oggi, tra cui il titolo di Cupertino, la Apple, che è volata ai massimi storici, toccando quasi 133,4 dollari per azione. Su questo si concentrano in 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, oggi a firma del vice direttore Alessandro Praterotti. Ricordo che sono trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Impazzire per l'iPhone è una frase ormai tipica tra i giovani e meno giovani di ogni parte del mondo, ma che anche il mercato finanziario si lasciasse trasportare dall'onda emotiva per la semplice celebrazione dei primi 10 anni di vita del pervasivo telefonino di Steve Jobs, beh, questo davvero se lo aspettavano in pochi. Invece anche il decennale dell'iPhone sembra contare per i mercati finanziari non meno del bilancio della Apple. Senza altre ragioni apparenti, se non proprio le 10 candeline sull'iPhone, il titolo del colosso dei computer, dei tablet, delle comunicazioni integrate è stato letteralmente sommerso dai regali degli investitori che fin dall'apertura di Wall Street si sono messi in fila per comprare non l'iPhone, ma le azioni della Apple. Il titolo è salito infatti al nuovo record di 133,2 dollari per azione, un prezzo che ha portato il valore totale della società a 695 miliardi di dollari. A oggi, e malgrado 3 trimestri di ricavi deludenti, Apple è in rialzo del 19% dalle elezioni di Trump e addirittura del 41% sugli ultimi 12 mesi. Ma chi ha davvero vinto la lotteria e chi ha comprato il titolo 10 anni fa, proprio di questi giorni? Allora costava meno di 12 dollari ad azione e al netto degli stock split, chi ha comprato ha già guadagnato il 1000% in questo arco di tempo. Se poi misuriamo la corsa sull'arco dei 20 anni, il guadagno sarà addirittura al 23.000%. Chi ha investito 10.000 dollari nel 97, insomma, potrebbe ora andare in pensione sereno. Avrebbe in banca 2,3 milioni di dollari. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, andiamo con le notizie in breve. Vedo che qualcuno mi scrive: ma guardi che una revisione a rialzo della stima italiana da 0,9 a 0,7 è il 25% in più. Ho capito, però siccome parliamo di decimali, è vero, è come dire che se rivedi la crescita dallo 0,1 allo 0,2 è il doppio, però sempre lo 0,2 è. Allora, non stiamo dicendo che non sia una buona notizia, ma siamo sempre allo 0,9. La cosa più importante è onestamente guardare la media europea, perché quello è il benchmark, come dicono quelli che hanno studiato, cioè il riferimento, non se da 0,7 vai a 0,9, perché tu puoi andare a stare anche a 0,7, se la media europea di crescita del PIL fosse 0,5 sarebbe un ottimo dato rispetto alla media europea. Se però la media è 1,7 e tu continui a fare dallo 0,7 allo 0,9, sei, siamo quasi, quasi alla metà di quella che è la media europea. Ma adesso vi arriveremo. Invece sulla borsa, devo dire che oggi il FTSE MIB è di nuovo sopra i 19.000 punti, adesso rialza dell'1,14%, recuperano alcuni titoli che molto avevano perso dopo i conti diffusi venerdì. Recupera soprattutto Banco BPM più 6,64%, ma anche UBI più 5,88%, tutti e due molto penalizzati venerdì dai conti. Bene anche Unipol più 5,70%, Unipol Sai più 4,20%, Mediobanca più 3,30%, Generali più 2,80%, Mediaset sostanzialmente più 2,30%, come Fiat Chrysler, Saipem più 2, Ferrari più 2, Brembo più 1,90% e Steam Microelectronics più 1,70%. Di negativo c'è poco, meno 0,40 2A, meno 0,20 Unicredit, meno 0,20 anche Enel. Allora, le altre notizie in breve, oltre ai temi di cui ci occuperemo oggi, diciamo, riusciamo a coprire quasi tutta la cronaca della giornata economico-finanziaria. Segnalo un'asta di BTP a 30 anni, anzi a 3, a 7, a 30 anni. Allora, il rendimento medio del triennale è salito a 0,25 contro uno 0,06, e questo vuol dire che qualche tensione c'è. Quello a 7 anni è salito dall'1,15% all'1,60%, quello a 30 anni, cioè prestare soldi per il debito italiano, finanziare il debito italiano per 30 anni, rende dal 3,14% al 3,43%. Comunque assegnati tutti gli 8 miliardi e mezzo di titoli, con una domanda che ha superato i 13 miliardi. 8 miliardi e mezzo di euro di titoli con una domanda che ha superato i 13 miliardi di euro. Allora, parleremo anche di un altro dato, e lo anticipo: il CERVED, come ogni anno, pubblica i dati sui fallimenti in questo paese. Il dato è buono, nel senso che restano sempre alti, ma meno 8,5% delle liquidazioni fallimentari, calano le procedure concorsuali per il terzo anno consecutivo, meno 35%. Fallimenti meno 8,5%, scusatemi, liquidazioni più 9%, procedure concorsuali meno 35%. E poi una notizia, ancora due notizie che riguardano l'Italia. Amazon, il colosso delle vendite online, aprirà quest'anno i nuovi uffici direzionali nel cuore di Milano, sposterà la propria sede italiana in un nuovo edificio da 17.500 metri quadri in via Monte Grappa, il cosiddetto Business District di Porta Nuova. Vabbè, verranno lì trasferiti tutti i 400 dipendenti, ma anche altri 1.100 dipendenti. Lo ha spiegato il numero uno di Amazon Italia e Spagna, ricordando come dal 2010 Amazon abbia investito più di 450 milioni di euro in Italia, creando 2.000 posti di lavoro. Tra l'altro, Amazon, che impiega oltre 2.000 persone tra Milano, il centro di distribuzione di Castel San Giovanni, il customer service di Cagliari, lo dico, è alla ricerca di altri professionisti, quindi vorrebbe, da quelle che sono le dichiarazioni del numero uno, continuare ad assumere. E poi una notizia che riguarda Trenitalia: va avanti la campagna di acquisizioni estere, o meglio, Trenitalia ha vinto delle gare importantissime all'estero, ma in questo caso non è la vittoria di una gara, è per Trenitalia l'acquisizione che viene completata di C2C, che è un'impresa ferroviaria che opera tra Londra e l'Essex. La società di diritto inglese, il closing, quindi l'operazione, vale 72,6 milioni di sterline, ed è stata terminata oggi, e quindi ne parlammo anche con numero uno qualche mese fa. Trenitalia ha tutto un progetto per partecipare a gare e acquisire anche soggetti a livello internazionale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo con il primo tema. Molti mi stanno scrivendo sulla pubblica amministrazione, anch'io avrei fatto scambio o cambio con il pubblico impiego, perché lì non sono licenziabili. Io non ho detto che sia andata meglio il settore privato, ho detto solo che con i contratti bloccati da 7 anni, vi è stata una perdita effettiva reale di potere d'acquisto calcolabile intorno al 6%. Comunque, l'incontro governo-sindacati, come si dice in questi casi, propedeutico alla firma poi dell'accordo sul rinnovo dei contratti nella pubblica amministrazione. Allora, l'incontro è stato poi sospeso, riprenderà in serata, ci sono delle verifiche, è stato richiesto, non hanno chiesto i sindacati di poter fare delle verifiche sulla base di alcune offerte, e non è vero che i dirigenti pubblici italiani siano i più pagati, sono i meno motivati, i meno incentivati e privi di un meccanismo premiale che li stimoli, così i sindacati dei dirigenti. Devo dire ai sindacati e ai dirigenti che nessuno ha mai detto, almeno non in questo programma, che i dirigenti della pubblica amministrazione siano i più pagati. Questo è sbagliato. Quello che abbiamo contestato parecchie volte sono i premi a pioggia sui dirigenti. Cioè, io vorrei vedere un dirigente anche strapagato perché ha, con i premi, devo dire, perché ha raggiunto e superato di gran lunga gli obiettivi, come avviene nel privato, e vorrei vederne altri, chiaramente non 9 premiati, uno no, ma magari quasi l'opposto, altri non premiati perché si sono limitati a fare il loro lavoro. L'importante, come spesso abbiamo raccontato, sono gli obiettivi che poni. Abbiamo raccontato nella classifica anche di obiettivi del tipo riuscire a utilizzare il sistema Excel delle volte, o è ovvio che un obiettivo del genere tutti vi arrivano all'obiettivo. Per cui il problema non è quanto sono strapagati i dirigenti, ma come vengono attribuiti i premi ai dirigenti, che servono anche come modello, visto che il pesce puzza o non puzza dalla testa, servono anche come modello agli altri dipendenti, ai quadri, agli impiegati. Gianni Trovati, aiutaci tu, buonasera Gianni. Buonasera, buonasera. Da dove stai parlando? Dal cavò del Ministero della Pubblica Sicurezza, della Pubblica Istruzione? No, in verità no, però sento anch'io un effetto. Adesso, casomai, di rame. Allora, intanto perché hanno sospeso i sindacati, c'è un elemento tecnico di aggiornamento e, come dicono loro, di alcune verifiche, oppure c'è dell'altro? No, allora il problema è che il testo è molto grande, sono in verità due testi, uno che riscrive il decreto legislativo sul pubblico impiego e uno che riscrive le regole appunto sui premi di produttività che erano state scritte nel 2009 dalla Brunetta, alla legge Brunetta. Quindi, come dire, ci sono svariati problemi, svariate questioni da affrontare, ma in verità è probabile che con i sindacati non ci sia uno scontro su questo testo, perché c'è un interesse condiviso da sindacati e governo di far andare avanti questa riforma, perché è il passaggio preliminare indispensabile per rinnovare i contratti. Se i sindacati, per dire, ponessero l'obiettivo di fermare per critiche nel merito questi decreti, di fatto fermerebbero il rinnovo dei contratti. Quindi, dovrebbero spiegare perché si è arrivati. Fuffa politica, diciamo, si dirà che è una base di discussione, ma serve di più, serve questo, serve quest'altro, ma il testo, insomma, è destinato ad andare avanti, anche perché quello previsto magari già questa settimana in Consiglio dei Ministri è un primo via libera, poi ci sarà il passaggio in Parlamento e si potranno emendare tutto l'emendabile. Allora, dopo il metodo e la pubblicità, così magari risistemiamo un attimo l'audio di Gianni Trovati, vorrei capire il tema vero di questo incontro, e cioè come si, lo dico male Gianni, ma insomma, come si valutano con meccanismi da un lato premianti, ma dall'altro anche penalizzanti, nel senso che non è che basti solo dire tu non ricevi il premio, puoi anche avere, c'è tutto il tema delle sentinelle sulla performance della pubblica amministrazione, e il fatto che i cittadini possano votare la qualità dei servizi. Devo dire che lo introdusse già Brunetta, Gianni, le faccine, no? Gli emoticon al suo tempo. Non mi sembra che siano arrivati dei grandi feedback, cioè dei grandi ritorni da questo strumento, no? Beh, diciamo che la fantasia ha un limite, per cui tutte le riforme del pubblico impiego parlano di vigilanza da parte dei cittadini, Brunetta aveva messo le faccine, eccetera. Il cuore vero è che si ridà ai contratti nazionali un forte peso nella definizione dei modelli di valutazione e così via, e di distribuzione dei premi, ma si prova a dare degli obiettivi chiari che sia alle amministrazioni nel loro complesso, sia poi per la valutazione dei singoli, sulla base dei quali effettuare davvero una selezione che finora è mancata. Sia premiante che penalizzante. Ci racconterai questi obiettivi dopo il meteo e la pubblicità. Faccio solo notare una cosa che mi scrive: attenzione, qui il tema è la produttività e come premiarla, l'efficienza, la performance, cioè come ti comporti, i risultati che ottieni, come premiarla e come penalizzarla quando non la ottieni. Non è, e lo dico perché c'è un po' questa vulgata nel paese, non è il tema del numero dei dipendenti della pubblica amministrazione, dentro cui rientrano, lo ricordo tranquillamente, poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco, infermieri e quant'altro. Perché lo dico? Perché se noi prendiamo, qui bisogna sfatare un mito, poi lascio la linea al meteo, la percentuale di pubblico impiego in Italia rispetto al totale della forza lavoro è molto più bassa rispetto alla Francia, alla Germania, siamo lì, ma anche e soprattutto alla Gran Bretagna. Noi abbiamo il 14% della forza lavoro che sono statali, dipendenti pubblici, ho sbagliato e chiedo venia. In Francia i dipendenti pubblici sono il 26% della forza lavoro, sono più del doppio dei nostri, sono 3.100.000, in Francia sono 7.500.000, in Gran Bretagna sono 6 milioni, quindi il doppio dei nostri, il 20% del totale. In Spagna il dato è simile al nostro, sono al 14% della forza lavoro. Ci sono due problemi su cui poi interverrà anche Gianni Trovati: uno è appunto l'efficienza della macchina, due l'età dei dipendenti, perché continuando a bloccare turnover noi abbiamo una media che ha in mediano oltre 50 anni dipendenti, solo lo 0,9% di tutti i dipendenti pubblici ha meno di 25 anni, in Francia e in Gran Bretagna sei al 5%, sei a 10 volte tanto. Questo è un altro elemento, e poi anche la loro concentrazione, se vogliamo, il 400 su 3 milioni e 100.000, 400.000 sono in Lombardia, 380.000 in Lazio e 282.000 in Campania, cioè tre regioni fanno un terzo di tutti i dipendenti. Ne parliamo dopo meteo e pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Allora, 17:37 minuti. Gianni Trovati, visto che molti mi scrivono, vanno bene le percentuali, però attenzione, rispetto ad altri paesi bisogna vedere quali servizi, l'efficienza dei servizi. Ecco perché non ha senso ragionare del numero assoluto, ma di incentivi, premi e anche, non dico punizioni, ma insomma elementi disincentivanti e anche, se si può usare questo termine, sanzionatori. Su che cosa si articola questo nuovo tentativo di arrivare a un'introduzione di un merito ancora più forte nei premi, partendo dai dirigenti, visto che leggevo Gianni la dichiarazione dei sindacati e dei dirigenti che spostano l'oggetto? Ripeto, nessuno ha mai detto che i dirigenti della PA italiana siano i più pagati. Il problema è che in proporzione sono anche molto molto premiati tutti, e l'abbiamo raccontato decine di volte. Prego Gianni. Allora sì, il tentativo questa volta è quello di articolare, diciamo così, il giudizio che si dà delle amministrazioni sulla base di un doppio livello di obiettivi, degli obiettivi nazionali e degli obiettivi specifici per PA, per singola amministrazione. Gli obiettivi nazionali possono essere i più vari e andranno articolati, però per esempio, visto che abbiamo parlato per anni di tempi molto lunghi nei pagamenti ai fornitori da parte delle PA, uno degli obiettivi potrebbe essere quello, sta studiando sui tavoli del governo, di legare appunto un obiettivo all'accelerazione o al rispetto dei tempi di legge nei pagamenti ai fornitori. Un altro è quello di avere tassi di assenteismo inferiori alla media, mentre c'è un'ipotesi contraria, cioè la riduzione dei fondi per i premi nelle amministrazioni che hanno tassi di assenteismo superiori alla media. La possibilità, la capacità della singola amministrazione di utilizzare davvero lo SPID, cioè quel sistema pubblico di identità digitale che dovrebbe darti tutti i servizi online, ma che è poco utilizzato non solo dai cittadini ma anche dalle stesse amministrazioni, cioè delle strategie nazionali di miglioramento, roba misurabile in percentuali, numeri eccetera, per essere oggettivi, ponendo delle asticelle, chi le supera avrà diciamo così una maggiore disponibilità di risorse per il salario accessorio, cioè per quella parte di quota paga che dovrebbe essere variabile ma oggi non è, e chi non le supera invece ne avrà meno. Sul piano invece di questo, perché la valutazione va fatta prima di tutto sul complesso degli uffici, poi all'interno degli uffici sarà la singola amministrazione a decidere le valutazioni dei singoli. Naturalmente bisogna superare il non detto che ha caratterizzato la PA fino a oggi. Oggi i premi, i cosiddetti premi, sono stati utilizzati molto spesso come diciamo alternativa al fatto che tu hai i contratti bloccati, hai un livello medio di retribuzioni che sicuramente non è elevato, e quindi il premio veniva utilizzato come parte diciamo aggiuntiva della retribuzione, congelando tutti, perché se io sono pessimo e tu sei bravissimo o viceversa, se abbiamo 4.000 euro all'anno lordi da dividerci, un conto è che li pigli uno solo di noi, tu, e un conto che invece sia diciamo così. Sì, mi stanno scrivendo alcuni, immagino, dipendenti pubblici di comuni piccoli o diciamo enti locali piccoli, dicono: insomma, come si fa in un comune medio piccolo dove nel nord, non so, dove i dipendenti sono berati, al massimo premiarne solo una minima parte sarebbe assolutamente controproducente. Se ben capisco il messaggio, se tu dai anche 1.000 euro di premio a un dipendente e zero agli altri, hai non solo diciamo la levata di scudi, ma rischi di creare un clima che è meglio non dare neanche 1.000 euro a quello. Se posso. Ma infatti tutta questa roba di cui stiamo parlando non è prevista quando la singola amministrazione vada sotto un certo numero di dipendenti. Nelle bozze si parla di 8 dipendenti o 5 dirigenti, si troverà un livello, comunque sia, naturalmente in molti piccoli comuni dove il ragioniere capo fa anche 4 lavori diversi, lo sappiamo benissimo tutti, e sono tantissimi soprattutto al nord, perché al nord ci sono tanti piccoli comuni, in quei comuni lì non puoi applicare la griglia delle performance e la valutazione, ma questo già lo sa anche chi ha scritto il testo. Dici un'ultima cosa, quando è che così i tempi, a me sai che interessano, perché insomma ragioniamo, ma i tempi secondo te stasera si rivedono, come stasera tu ricordavi rivedono. C'è questo vincolo proprio per evitare che poi i sindacati, immagino, anche iniziano a fare una battaglia così di posizione da guerriglia, per cui tu non puoi far partire il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione se non c'è prima l'accordo, e questo spinge anche i sindacati, immagino, ad arrivare ad un accordo, perché poi dovrebbero spiegare ai loro associati perché è ancora tutto bloccato. E quindi i tempi? I tempi sono tra questa settimana e la prossima il primo via libera in Consiglio dei Ministri ai decreti legislativi e poi 2 mesi per l'esame delle commissioni parlamentari, del Consiglio di Stato e la ricerca dell'intesa con le regioni. Oltre alla volontà politica c'è un termine di legge, i decreti devono ottenere il primo via libera entro il 27 febbraio, se no scade la delega, il governo punta a guadagnare qualche giorno. Quindi alla fine come data? Questa settimana e la prossima il primo via libera, quindi fine aprile dovrebbe finire la giostra. Allora, grazie intanto a Gianni Trovati, perché finire la giostra non è offensivo, così come io ho detto associati, in realtà sono iscritti a un sindacato, avete ragione. Grazie per ora Gianni Trovati, poi eventualmente altri aggiornamenti vedremo sicuramente nel corso del GR24 e poi eventualmente anche domani. Passiamo alla borsa. La cui vera domanda oggi è diciamo che cosa è successo nel weekend nella testa di alcuni operatori, perché noi venerdì abbiamo raccontato di cali anche significativi, anche pesanti su alcuni titoli dopo i conti diffusi, e mi riferisco alle trimestrali, quindi al bilancio anche dell'anno su Banco BPM, su UBI, BPER, devo dire che a parte BPER, che adesso vi darò, eccola qua, che chiude leggermente positiva, ma più 0,34%, Banco BPM, che molto aveva perso venerdì, fa più 6,60, UbiBanca più 6,40. Allora giro la domanda a Radio Coro, Sole 24 Ore. Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Abbiamo scherzato venerdì? Ma diciamo che venerdì, per quanto riguarda UBI, c'era stata qualche perplessità, soprattutto sugli oneri straordinari iscritti a bilancio dalla banca. Mm-hmm. Perplessità evidentemente superate ora. Comunque UBI è una delle banche più solide in Italia in base ai dati di bilancio, quindi si è tornati a premiare questo aspetto dell'andamento dell'istituto. Per quanto riguarda il Banco BPM, venerdì i titoli erano scesi prima della pubblicazione dei risultati, che hanno visto, ricordiamo, maxi svalutazione, una perdita importante per il primo anno pro forma della nuova banca, 1,6 miliardi lo scorso anno. Però oggi molti analisti commentavano che comunque, considerando anche le svalutazioni, le attese erano per una perdita superiore, e quindi sembra un buon punto di partenza per lo sviluppo dell'istituto. Per quanto riguarda invece BPER, che come ricordavi tu è in difficoltà anche oggi, anche se è riuscita a chiudere appena sopra la parità, in questo caso diciamo che il mercato aspetta chiarezza su cosa farà la banca, che è una delle più solide con un coefficiente patrimoniale tra i più alti del sistema, e si aspetta di capire se vorrà fare qualcosa sul fronte delle acquisizioni oppure se utilizzerà questo capitale in eccesso, diciamo così, per migliorare la qualità del portafoglio, quindi aumentando il livello di copertura dei crediti in sofferenza. Sì. In attesa di capire quale sarà la strada scelta, gli investitori rimangono prudenti. E tu invece resta con noi, c'è il traffico e poi gli altri titoli. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, Paolo Paronetto, tema delle banche, tu lo ricordavi, oltre a Banco BPM, Banca c'è anche Unipol 6 più 6, Unipol più 6, Unipol 6 più 4,70, Mediobanca più 3%. Poi andiamo invece sul tema degli energetici, ma non solo. Però prima, scusami, Generali si è un po' risvegliata oggi, per carità, più 2,60%, motivo? Sì, diciamo che a rilanciare il dossier di una possibile operazione intesa San Paolo su Generali è stato nel weekend il Financial Times. Mm-hmm. Che sosteneva che entro febbraio Intesa potrebbe presentare un'offerta mista azioni cash. Sono tutte ipotesi che la banca naturalmente non commenta, e non più tardi la settimana scorsa Messina aveva spiegato che non siamo ancora nella fase della messa a punto di un'eventuale offerta, però è bastato naturalmente per riaccendere un po' la speculazione che aveva fatto sgonfiare il titolo nelle ultime sedute. Oggi ha guadagnato il 2,57%, mentre Intesa è stata frenata forse anche appunto da questa ipotesi, più 0,47%. A proposito di operazioni, ce n'è un'altra, Mediaset, o meglio, quella è già come operazione è già stata realizzata, Vivendi è entrata fino al massimo in cui poteva entrare senza lanciare l'offerta pubblica di acquisto. Berlusconi ha ribadito che la società di famiglia, di cui appunto Fininvest è su Mediaset l'azionista di maggioranza relativa, è incedibile, il titolo però guadagna il 2%. Sì, il titolo oggi ha guadagnato bene, e diciamo che Berlusconi ha confermato che appunto per la famiglia la società è incedibile, e d'altra parte ha anche confermato, diciamo, una linea dura sul caso Vivendi, quindi la volontà di arrivare a un accordo sì, ma se Vivendi rispetterà i patti che erano stati firmati su Premium e che Vivendi naturalmente non ha rispettato, perché li considerava non validi. E diciamo che in questo muro contro muro il mercato può vedere ancora uno spiraglio, quindi per una soluzione ostile, quindi addirittura una battaglia di offerte su Mediaset, ma anche in questo caso quindi la speculazione è tornata a far salire il titolo della società. Andiamo sui migliori e peggiori. Do prima Enel meno 0,40 e A2A meno 0,77, gli unici due titoli negativi. C'è anche Poste Italiane meno 0,17%, tra cui le maggiori capitalizzazioni. Migliori e peggiori: Vita, società editoriale più 12, come Gequity, SMRE più 11,70, Cementi Holding più 10,26, 4 migliori titoli. Fronte opposto invece Sintesi meno 26, Elica meno 6, Neurosoft meno 4,5, Novare meno 4,25%. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Coro, Il Sole 24 Ore. E noi adesso ci spostiamo invece dalla finanza, torniamo all'economia reale, più reale di così, il rapporto annuale del CERVED su, da un lato fallimenti, dall'altro però anche accordi consensuali. C'è chi mi chiede del petrolio, non abbiamo dato in apertura, avete ragione, sempre a $53 al barile, leggermente in calo di un po' più dell'1% oggi, ma restiamo sul rapporto CERVED. Il consueto osservatorio di CERVED fotografa l'andamento dei fallimenti da lì e anche di altre procedure concorsuali. Il dato è buono visto così, nel senso che il calo dei fallimenti viene confermato e per il terzo anno consecutivo anche il calo delle procedure concorsuali, meno 35% queste ultime, meno 8,5% i fallimenti, sono comunque 13.500 le imprese fallite nel 2016. Si usa sempre meno il concordato preventivo, mentre è tornato ad aumentare il numero degli imprenditori che decidono di liquidare la propria attività in bonis senza arrivare al concordato preventivo al fallimento, più 9%, oltre 85.000 imprese l'anno scorso liquidate ma in bonis. La riduzione dei fallimenti riguarda praticamente tutti, le società con capitale meno 8,5, la società di persone meno 8,2%. Se guardiamo i settori, la riduzione più marcata nelle costruzioni, meno 11%, rispetto ai servizi meno 8%. Diminuiscono, se ben visto, a livello geografico in tutta la penisola. Chiedo a Guido Romano, responsabile ufficio studi di CERVED, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Anticipo, immagino, l'obiezione di alcuni ascoltatori: non è che questa riduzione dei fallimenti e di altre procedure e delle procedure concorsuali insomma non sia dovuta al fatto che ormai quello che poteva fallire è fallito, c'è cioè la selezione, alcuni la chiamo darwiniana, ma insomma si riduca il grasso attorno all'osso, cioè ormai chi è rimasto in piedi è rimasto in piedi e chi doveva fallire è fallito nel corso di questi anni, cioè che sia solo apparentemente una buona notizia. Ma in parte questo è vero, diciamo, la base produttiva del paese si è molto ridotta, in parte c'è da dire che nonostante questa riduzione il numero di fallimenti rimane ancora a livelli alti. Nel 2008, che 13.000... l'ultimo anno prima della crisi, il numero di società fallite era pari a 7.500. Cioè siamo ancora al doppio rispetto al 2008 nonostante il calo. Siamo quasi al doppio nonostante il calo. D'altra parte c'è anche da dire che altre informazioni sulle imprese ci dicono che questo lento miglioramento si vede su altri fronti. È come se le piccole e medie imprese italiane si siano abituate a operare in un contesto molto molto meno stimolante di quello che era prima della crisi. Ecco, sulla distribuzione geografica invece è abbastanza omogeneo? Sì, sulla distribuzione geografica è abbastanza omogeneo, cioè fanno eccezione la Sicilia e soprattutto la Sardegna, in cui c'è stata di nuovo un'impennata dei fallimenti che sono aumentati di un quarto tra 2016 e 2015. Mm-hmm. E senta, per quello che riguarda invece l'altro dato, cioè che sono aumentate anche parecchio le liquidazioni in bonis, quindi sostanzialmente decidono di liquidare più 10%, 85.000. Come spiegate e interpretate il dato che da un lato restano alti i numeri di fallimenti, che appunto sono il doppio rispetto al 2008, ma sono in costante calo da 3 anni, questo riguarda anche le altre procedure concorsuali, e l'aumento significativo degli imprenditori che decidono invece di liquidare l'attività in bonus? Allora, in parte questo è dovuto ad aspetti tecnici, cioè al fatto che sia divenuto più fiscalmente più conveniente liquidare alcuni tipi di società, in particolare le società immobiliari. Mm. Però anche se noi depuriamo da questo fenomeno, il numero di liquidazioni aumenta e noi interpretiamo questo dato come un peggioramento delle aspettative degli imprenditori, perché tipicamente... Cioè vai a vendere anche quando lì non sei in affanno, infatti liquidi in bonus perché non ti fidi comunque? Perché diciamo le prospettive di profitto non giustificano l'attività di impresa, quindi quando diciamo le prospettive per i prossimi anni non sono positive, c'è chi decide comunque di chiudere l'attività. Pur avendo dei margini, perché se la liquidi in bonis hai dei margini ancora. Sì, o comunque i margini sono così bassi che non giustificano l'attività di impresa. Cioè non vai a fallire, la chiudi. Esatto, la chiudi prima di avere questo dei riguarda problemi. Anche le cessioni, sono solo liquidazioni queste? Queste sono liquidazioni e scioglimenti volontari. Senta, le indicazioni che voi avete invece sull'anno in corso, è ancora presto però. Ma noi prevediamo che questo lento ritorno alla normalità prosegua nel 2017 e nel 2018. Lo vediamo anche da alcune informazioni che riguardano i crediti deteriorati diversi dalle sofferenze che già stanno tornando a livelli più vicini a quelli pre-crisi. Grazie, grazie anche, come ogni anno devo dire, a Guido Romano, responsabile ufficio studi di, del CERVED. Andiamo sul GR24 349 238 6666 per sms e whatsapp, poi ci occupiamo della Corte dei Conti che bacchetta il modo in cui usiamo i fondi europei e invece delle prospettive europee anche sulla crescita italiana. Oscar, mi aiuti? Eccomi! No, no, no, no, stai attento, prendila di lì! Ma cosa? È scivolosa! Guarda che esplode questa notizia, guarda che è una bomba! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. Notizie esplosive. E schiene dritte. Attenti a noi due, ogni giorno dalle 8:20 su Radio 24. Con Alessandro Milan e Oscar Giannino. L'informazione che non ha paura. Semmai ne fa. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, vedo molti messaggi sull'ultimo approfondimento, il rapporto annuale del CERVED sui fallimenti e anche invece non fallimenti, liquidazioni in bonis. Devo dire che l'ha chiarito molto bene il responsabile dell'ufficio studi del CERVED, anche il fatto delle aziende che vanno a liquidare la propria attività in bonis non è una bella notizia, ha spiegato in maniera molto chiara che quando un imprenditore non vede le grandi prospettive e sono in aumento del 9% e ha dei margini risicati, preferisce chiudere perché diciamo, il gioco non vale la candela, lo sforzo non viene ripagato, i margini sono bassi, quindi non sei fallito, non vai verso un concordato preventivo, ma chiudi in bonis perché non preferisci, magari ti butti su un altro ramo o fai altro perché non vedi prospettive, e non è una buona notizia, lo dico anche chi mi sta scrivendo, guardate che qua continuano a chiudere aziende, nessuno ha detto che sia una buona notizia. E soprattutto resta, pur all'interno della buona notizia di un calo continuo per il terzo anno dei fallimenti, resta un livello di fallimenti che è doppio ancora, cioè 13.500, in calo è anche significativo, però è il doppio di quelli del 2008, dell'anno pre-crisi, quando erano 7.000 circa. A proposito di andamento dell'economia, oggi diffuse le previsioni economiche della Commissione Europea, le abbiamo ricordate in apertura, comunque vado molto rapido, la crescita media dell'area euro è all'1,7%, ma soprattutto vengono riviste a rialzo tutte le previsioni di crescita. Per l'Italia però più 1,6% quest'anno, scusatemi, più 1,8% l'anno prossimo come media dell'area euro del PIL. E dice Bruxelles, dopo un decennio tutti i paesi hanno il segno più, perfetto. Poi dentro le medie come quella di Trilussa vediamo che l'Italia viene rivista leggermente al rialzo sul 2018, sale dall'1 all'1,1%, quest'anno più 0,9%, l'anno scorso più 0,7%. E quindi a casa mia siamo alla metà, ma questa non è una novità, ma alla metà della media europea. Sentiamo Moscovici sull'Italia, e perché Moscovici, il commissario europeo, si è occupato anche della correzione dei conti che deve operare l'Italia. Positivo l'impegno del nostro paese, non c'è alcun ultimatum all'Italia. Come voi sapete, nous avons écrit le 17 janvier à Piercarlo Padoan. Come sapete, abbiamo scritto il 17 gennaio a Piercarlo Padoan per informarlo del fatto che, secondo noi, delle misure aggiuntive, almeno dello 0,2% del PIL, sarebbero necessarie per ridurre il divario e arrivare a un'uniformità globale con il braccio preventivo del patto nel 2017. La risposta, che ci è arrivata il 1 febbraio, contiene una serie di impegni che devono essere adottati entro fine aprile per realizzare questi sforzi ulteriori strutturali dello 0,2% nel 2017. La lettera ricevuta il 1 febbraio non conteneva dettagli abbastanza precisi sulle misure da intraprendere per poterle inserire nelle nostre previsioni, e quindi ci sono dei risultati in termini di deficit che non tengono conto di questo 0,2%. Ma abbiamo preso atto in maniera positiva di questi impegni e le misure verranno prese in considerazione non appena avremo i dettagli sufficienti per vedere se gli impegni saranno rispettati, e speriamo avvenga il prima possibile. Nous espérons que cela viendra aussitôt que possible. Let me stress, having seen some of the press of recent days. Voglio sottolineare, avendo visto la stampa negli ultimi giorni, che ovviamente incoraggiamo il governo a prendere il prima possibile i provvedimenti necessari. Ma è assolutamente sbagliato parlare di qualsiasi sorta di ultimatum. Stiamo discutendo in un clima estremamente positivo col governo italiano, in particolare con il ministro Piercarlo Padoan. Questo è il modo in cui lavoriamo. Nessun ultimatum di sorta, ma un dialogo costante e costruttivo. Ovviamente vogliamo vedere di che misure si tratta e come verranno prese. Allora, intanto ringrazio per averci raggiunto un collegamento dal lato Francesco Daveri, che insegna politica economica all'Università Cattolica di Piacenza. Buonasera, professore. Buonasera. E dall'altro invece anche la collega del Sole 24 Ore, perché qui abbiamo anche il tema della Corte dei Conti. Le chiedo ancora un po' di pazienza, Nicoletta Cottone. Buonasera, ciao Nicoletta. Ciao, buonasera. Allora, Daveri, inutile girarci attorno qui, insomma, non è un tema di decimali. Poi Moscovici ha detto che Brexit e Trump rappresentano, nel rapporto, lo dice la Commissione Europea, rischi molto forti di una revisione al ribasso. L'Italia rischi da banche, incertezza politica. Il rischio politico è il populismo anti-euro, magari lo facciamo sentire, che però è più forte in Francia, che è nato prima in Francia che in Italia. Non so, a me è sembrata una Commissione Europea che cerca, proprio perché Germania, Francia e forse anche Italia vanno alle elezioni, di guardare il bicchiere mezzo pieno. Per la prima volta tutti i paesi dell'area hanno il segno più, e poi sappiamo che però dentro noi cresciamo meno della metà. Daveri? Sì, però guardando i dati credo che la Commissione Europea non potesse che arrivare alla conclusione che tutto sommato tutte le economie europee stanno andando verso crescite che sono maggiori di quelle del passato. Certo, ognuno ha il suo tasso, nel senso che l'Italia cresce sempre un po' di meno della media dell'Eurozona e ancora di più della media di tutta l'Europa, e questi sono i dati. Però insomma, intanto l'Italia che fa un più 1% di crescita del PIL, circa, decimale più, decimale meno, un'inflazione che torna all'1% dell'insieme, vuol dire anche che se il PIL complessivamente, quindi a prezzi in euro, aumenterà del 2% nel 2017, e quindi questo vuol dire che il denominatore del rapporto debito pubblico PIL torna a crescere a un tasso che insomma, rende un pochino meno pericolosa la dinamica del nostro debito. Quindi nell'insieme questa cosa viene registrata dalla Commissione Europea non con soddisfazione, ma con cautela, insomma, con cautela, perché si ricorda che i negoziati in corso danno per scontato l'esistenza di una correzione, sia pure limitata, dei conti dell'Italia, per il momento non è possibile quantificarlo, come abbiamo sentito da Moscovici, però infatti questo si traduce nella tabellina che viene riportata sulla parte dell'Italia, perché il deficit infatti viene dato in lieve aumento da 2,3 a 2,4% nel 2017. Facessimo il meno 0,2 saremmo a 2,2. Al di là quindi delle cose poi che dice l'Europa, il braccio preventivo, queste cose che nessuno capisce, in realtà alla fine a Bruxelles quello che interessa è che scenda almeno di uno 0,1 il rapporto deficit-PIL, perché questo è poi un po' la cosa. Sì, magari aiutati anche da un po' di ripresa. Devo dire che la media del deficit nei paesi dell'area euro è all'1,4, anche qui una media dei polli di Trilussa, perché sappiamo che ci sono paesi come la Francia stabilmente sopra il 3%, che dovrebbe essere il limite massimo, e paesi come la Germania che sono allo zero. C'è un'altra media però che mi interessa di più, ed è quella sull'inflazione, perché dice la Commissione Europea l'inflazione viaggia verso l'1,7%. Questa a noi interessa in particolar modo perché sappiamo che la Banca Centrale Europea, quando vedrà un'inflazione intorno al 2, siccome ha sempre detto che quella è un'inflazione buona, il livello ottimale di inflazione, né troppo alta né troppo bassa, avrà a mio avviso ad avere meno elementi Mario Draghi per dire continuo a stampare euro, comprare titoli, cioè mantenere questa famosa politica accomodante e tenere i tassi bassissimi. E qui un po' noi rischiamo. Rischiamo certamente, c'è da dire però che l'andamento dell'inflazione è determinato soprattutto dall'andamento del prezzo del petrolio, quindi per ora cioè tanto quanto abbiamo avuto la deflazione l'anno scorso, essenzialmente motivata dal fatto che il petrolio andava giù del 20% e anche di più all'anno, adesso abbiamo un petrolio che sale finora del 20% e anche questo ha riportato su il tasso di inflazione. Quindi sarebbe meglio parlare dell'inflazione cosiddetta core, cioè quella non importata, ma quella che sta a segnalare se c'è o no un risveglio dei consumi, delle attività economiche, quindi una tensione sui prezzi. Infatti, anche se poi bisogna poi spiegare alla gente come diavolo è questo core inflation, insomma, che è una cosa un po' più, insomma, non è poi così semplice da calcolare e quindi però certamente lì infatti la commissione dice che è in leggero aumento questa inflazione ed è sta ben più sotto rispetto all'1,7%, e dall'altro lato c'è anche da dire che la BCE guarda poi alla previsione dell'inflazione da qui, non so, a 6 mesi, a 12 sì. mesi, quindi questo è un po' la cosa, non è proprio l'inflazione di dicembre o di gennaio quella che conta. Sì, ma tanto le elezioni in Germania vi saranno già state a quel punto. Allora, e su questo vorrei chiudere con lei, Daveri, prima di passare alla collega, perché Moscovici, rispondendo proprio a una domanda sull'Italia, non si riferiva solo all'Italia, però è entrato nel tema politico di questa polemica, il populismo anti-euro, di uscire dall'euro, ha ricordato, devo dire, che questi movimenti sono nati prima e sono anche più forti in Francia. Però ascoltiamo Moscovici sui rischi politici che vanno a pesare sulle prospettive di crescita. I rischi politici sono presenti in tutta l'Unione Europea. I rischi politici sono presenti in tutta l'Unione Europea, in molti paesi, e hanno un nome molto chiaro: populismo anti-europeo. Con questa volontà, che considero assurda e pericolosa, dovunque essa sia, e che è presente in un paese che conosco molto bene, la Francia, prima che in Italia, di voler uscire dall'euro e dall'Unione Europea. Sarebbe una causa di impoverimento per queste economie. Comporterebbe il ritorno assicurato di un'inflazione che penalizzerebbe gli strati sociali medi e popolari e comporterebbe un'esplosione dei tassi di interesse del debito. È qualcosa che davvero bisogna evitare. E quando si è impegnati in tornate elettorali, bisogna combatterle, perché sono un pericolo sia per i paesi che per l'area euro nel suo insieme. La Commissione ha ovviamente un dovere di indipendenza sulle elezioni, ma il nostro impegno contro i populismi e le assurdità anti-europee e anti-euro c'è. Ce combat-là, nous y sommes bien sûr engagés. Allora, fermo restando che poi uno può pensare quello che vuole, ma sul fatto che l'inflazione, che imbarcheremo sicuramente con una moneta svalutata, va a penalizzare i redditi più bassi, questo non è un problema di atteggiamento politico, questa è la storia che ce lo insegna. Dove c'è inflazione, chi la prende in quel posto sono sempre le categorie più basse. Lo dico perché qua c'è anche la retorica che il ritorno alla lira aiuterebbe le fasce più basse. No, sono quelle che in primo luogo vedrebbero erodersi tutto il potere d'acquisto con l'inflazione. Ma detto ciò, il fatto però davvero che in Germania, insomma, se la giocheranno Merkel e Schulz, con Schulz in vantaggio, e che in Francia con ogni probabilità, anche dovesse essere molto forte la Le Pen al primo turno, Macron andrà a far convogliare su di sé i voti di, diciamo, centrodestra, centrosinistra, non è una paura più ostentata, più così teorica che concreta? Ma stando all'Italia, in realtà mi sembra che l'instabilità politica vera e propria che stiamo toccando con mano proprio in questi minuti e in queste ore è quella dovuta alla potenziale dissoluzione del partito di maggioranza relativa, prima ancora che gli euroscettici, nel senso che è lì che è molto più grave che il partito che è alla base dell'attuale governo non sia in grado di indicare una direzione di marcia agli italiani, la cosa che genera instabilità politica. Questo hai ragione. E poi certamente ci mancherebbe, questo non per sminuire la minaccia dell'uscita dall'euro, che sarebbe sicuramente una sciagura, però i mercati per esempio fanno i conti con quello che vedono nei mesi a venire. Allora questo, la prima cosa che si vede è che non è ben chiaro quando si vota, con che prospettive si vota, questo è il punto, non è tanto l'uscita dall'euro che al momento continua a ritenere molto improbabile. Sì, devo dire che insomma la direzione del PD fa peggio, insomma, per quello che riguarda gli investitori, chi ci guarda da fuori, voglio essere molto preciso, fa peggio la direzione del PD da quello che stiamo vedendo che non lo spauracchio dell'uscita dall'euro, ho capito bene Daveri? Sì, certo, beh, naturalmente poi gli investitori sanno conoscono che insomma noi italiani siamo un po' speciali, insomma, siamo capaci sempre di dividerci su tutto. L'economia adesso si rimette ad andare un po' meglio, l'inflazione torna un po' su dopo che ci siamo lamentati tanto del rischio di deflazione, e il partito di maggioranza relativa decide di così dividersi in 10 correnti come faceva la vecchia Democrazia Cristiana. Di sì, cui però non la si vecchia sente Democrazia Cristiana è vero che aveva 10 correnti, ma poi era la grande balena bianca, cioè poi andava, il partito restava. Qua non abbiamo ancora capito cosa resterà poi alla fine di questo percorso. Tutto molto interessante, non so quanto per i problemi quotidiani di chi ci ascolta, lo dico col massimo rispetto per il direttivo del PD, tutto molto interessante, però temo che nella vita quotidiana poi i problemi siano altri, e come diceva lei anche il tracciare una rotta, cioè dove vogliamo andare, che tipo di atteggiamento vogliamo avere. Comunque, nel ringraziare Francesco Daveri, chiedo invece alla collega Nicoletta Cottone di restare con noi, perché oggi la Corte dei Conti ha bacchettato, visto che spesso chiediamo un maggior impulso nei finanziamenti europei, nei piani europei di rilancio, poi non riusciamo, questa non è una novità, ma purtroppo non riusciamo a utilizzare appieno i propri fondi europei, e si è concentrata anche sulle truffe sui fondi europei. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Traffico. Focus Economia. Allora, Nicoletta Cottone, la relazione dei vertici della Corte dei Conti per l'inaugurazione dell'anno giudiziario dice che serve una sinergia tra l'ANAC, tra Cantone e l'antitrust, dice Galateri, e dice attenzione, siamo al top per i costi dei servizi pubblici, bisogna accendere un faro sulle società in house, e serve la competenza della pubblica amministrazione, e poi c'è il tema della dispersione dei fondi dell'Unione Europea. Nicoletta. Allora, oggi il discorso si è aperto con il procuratore generale della Corte dei Conti, Claudio Galteri, che ha detto che è l'inefficienza a creare ampie zone oscure, e andando subito sul problema dei fondi strutturali, la denuncia di Arturo Martucci di Scarfizzi, che è il presidente della Corte dei Conti, è stata ha riguardato l'utilizzo dei fondi strutturali, cioè secondo lui c'è un rischio di dispersione dei fondi che è addirittura al di sopra dell'80%, e bisogna focalizzare l'attenzione sulle cause che stanno ritardando il pieno avvio della nuova programmazione per il 2014-2020, mentre invece il giudizio di oggi riguardava i 7 anni che vanno dal 2007 al 2013. Su questo però il ministro De Vincenti non è stato d'accordo, e anzi ha detto che secondo lui l'allarme è del tutto infondato, perché secondo lui sarebbero stati utilizzati i vecchi dati, in quanto dal caricamento dei nuovi dati, appare che addirittura la spesa sostenuta è pari al 103,8%, le certificazioni sono in corso perché secondo le regole europee vanno completate entro la fine di marzo, però i numeri sarebbero già al 97,78% e questa rilevazione è datata 31 dicembre 2016, quindi il ministro dice che i dati della Corte dei Conti sono basati su vecchi risultati. Ma noi speriamo che abbia ragione De Vincenti, perché già ci occupiamo a sufficienza di questo nella nostra poco invidiabile classifica del venerdì. E a questo proposito vi vorrei fare ascoltare solo un passaggio breve di Claudio Galtieri, appunto procuratore generale, sulle società in house. Cosa sono? Sono le partecipate, le municipalizzate, che conferiscono all'Italia uno dei primi posti per i costi dei servizi pubblici. Ponendo l'Italia tra gli stati in cui in media più alto è il costo dei servizi pubblici, con i conseguenti effetti negativi sulla competitività delle imprese nazionali. Un danno non più al pubblico erario, come finora configurato, ma all'intera collettività. Nella sua quotidiana attività la Procura Generale si è sempre dimostrata pronta ad affrontare i nuovi compiti con rinnovato impegno ed entusiasmo. E quindi, purtroppo la qualità dell'audio era pessima, attenzione perché ha continuato Galtieri, le società a partecipazione pubblica riescono a scaricare le loro inefficienze sulla collettività attraverso la leva tariffaria, bollette, gas, bollette, luce, prezzo dei biglietti, dei trasporti. Questo è il problema, dove poi anche il governo centrale ha difficoltà, perché tu puoi fare una manovra, dare 80 euro, ma se io questi 80 euro li perdo sui costi e le inefficienze non li vedo proprio. E di questo parleremo anche nel corso della classifica. Intanto grazie alla collega del Sole 24 Ore Nicoletta Cottone, veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.